Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Tra gli anni 50 e 60 del Novecento, l'economia italiana, uscita stremata e distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, riesce a conseguire notevoli tassi di sviluppo e a compiere quel grande balzo che la porterà da una struttura economica prevalentemente agricola a una dimensione da economia industrializzata. Una sorta di ansia di progredire attraversa il paese, concetto richiamato non a caso dal governatore della Banca d'Italia Donato Menichella in quegli anni. Questa sera approfondiamo la storia economica del nostro paese dal dopoguerra al 1968, traendo spunto da una mostra, la mostra Altre Stanze, promossa dalla Banca d'Italia in collaborazione con il Comune di Frascati e curata da Maria Stella Margozzi e Morena Costantini. Vi sono esposte opere degli anni 50 e 60 di grandi maestri del dopoguerra e del Novecento, che fanno parte di raccolta della Banca d'Italia. Una sorta di viaggio, dunque, di cui parliamo questa sera con Luigi Donato, capo del Dipartimento Immobili e Appalti della Banca d'Italia. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, grazie. Ascoltiamo prima di tutto questo passaggio che è tratto dalla sua presentazione della mostra contenuta nel catalogo. L'Italia di quegli anni è quella del primo Festival di Sanremo del 1951, del maestro Manzi che dalla TV insegna agli adulti a leggere e scrivere, della dolce vita e del miracolo economico. Ma sono anche anni di conflitti sociali e politici, con uno sviluppo economico rapido ma non privo di criticità, che resteranno in larga misura irrisolte e caratterizzeranno i punti di debolezza strutturali dell'Italia negli anni a venire. Gli anni 50 si aprono con il piano Marshall e di stampo americano sono, in quegli anni, le nuove tecniche di produzione, gli schemi organizzativi aziendali e anche i modelli sociali e di costume. Ma gli anni 50 si aprono anche con la guerra in Corea. In Italia il conflitto politico, specchio della guerra fredda, è acuto e si concentra sulla legge elettorale, la cosiddetta legge truffa. Nel 1954 arriva Lascia o raddoppia e Mike Bongiorno. Ci si riunisce nelle case e nei bar per vederla. Il televisore è fuori portata per gli stipendi dell'epoca. L'Italia è ancora un paese profondamente povero. Il miracolo economico inizia nel 1958 e con esso inizia anche ad ampliarsi il divario tra nord e sud. La valigia di cartone diventa il simbolo dell'emigrazione di massa verso le fabbriche che iniziano a produrre in quantità sempre crescenti, lavatrici, frigoriferi e ovviamente automobili. L'Italia è leader nella produzione di elettrodomestici, mentre migliaia di ex contadini diventano operai e vivono il trauma della fabbrica. La Vespa e la 600 diventano abbordabili per le famiglie, così come l'acquisto di una casa in cooperativa, anche se attraverso un utilizzo diffusissimo delle cambiali, che le banche provvedono poi a scontare. L'acquisto della macchina diventa indispensabile, uno status symbol di elevazione sociale, poi diventato una regola di vita. Nel 1956 prendono avvio i lavori dell'autostrada del sole tra Milano e Napoli. Finiranno in tempi contenuti, nel 1964. Tra il 1951 e il 63 il prodotto interno lordo aumenta in media del 5,9% annuo, con un picco dell'8,3% nel 1961. E allora, dottor Donato, anni di grande sviluppo di cui la mostra rende conto ed è parte integrante di questo patrimonio artistico della Banca d'Italia. Sì, guardi, certamente nelle varie fasi storiche della vita della banca il rapporto con l'arte è stato sempre molto stretto, è iniziato dopo l'Unità d'Italia in cui il fulcro, diciamo, della vita istituzionale della banca erano i grandi palazzi che sono stati costruiti a partire da Palazzo Koch, e in questi palazzi il nesso con l'arte era evidente perché bisognava rappresentare anche all'esterno, al paese, alla collettività, l'idea di una banca centrale forte, autorevole e anche caratterizzata appunto da una forte vicinanza con l'arte. Nel corso degli anni, diciamo, il patrimonio si è arricchito, ad esempio nel corso degli anni 30 quando c'è stata la grande crisi, la Banca d'Italia è intervenuta per lavorare per il salvataggio del nostro sistema finanziario, ma ha anche lavorato e operato per il salvataggio del patrimonio artistico, ad esempio rilevando gran parte della collezione di Riccardo Gualino, che è costituita, diciamo, la prima parte, la parte più interessante, più importante dell'acquisizione di capolavori d'arte, tant'è che proprio in questo periodo con i Musei Reali di Torino si sta pensando di ricostruire in un'esposizione la parte del patrimonio artistico di Gualino conservata a Torino e quella conservata a Roma alla Banca d'Italia. Certo. Nel dopoguerra poi è nata, diciamo, questo nucleo relativo ad artisti italiani del dopoguerra, sulla base di una intuizione, di una forte spinta a raccogliere opere appunto di questi autori italiani che sono in gran parte esposti a Frascati in questi giorni, grazie alla preziosa collaborazione col comune appunto di Frascati. E in qualche modo, mentre la Banca d'Italia cercava di aumentare il proprio patrimonio in aureo, la propria riserva aurea che costituisce la terza riserva aurea nel mondo, quindi in quegli anni è fatta una grande operazione della quale portiamo ancora beneficio, è stata raccolta anche questa collezione d'arte. Il senso della collezione oggi è ovviamente, dopo averla, come dire, conservata nel corso degli anni, è quella di esibirla al pubblico, quindi di collegarsi appunto in una visione istituzionale con la collettività. E il messaggio di questa mostra è sicuramente un messaggio di leggere attraverso queste opere d'arte la storia economica e sociale di quegli anni. Perché, dottor Donato, c'è un legame molto stretto tra storia dell'arte e storia economica. Guardi, assolutamente, se noi accantoniamo per un attimo l'arte come esperienza individuale, emozionale, o l'arte come investimento finanziario, nella visione collettiva il valore dell'arte come comunicazione, ma anche come formazione, ad esempio dei giovani, è fortissima e sicuramente consente di leggere la storia e anche molto la storia economica di un paese attraverso queste opere. Se guardiamo, diciamo, le opere che sono esposte, ricordando che cos'era il nostro paese in quegli anni, i fermenti, le contraddizioni, anche le disillusioni del dopoguerra, è facile vedere come gli artisti di quegli anni questi sentimenti li hanno trasferiti nelle opere, e dove, insomma, chiaramente finisce, diciamo, l'impronta figurativa e si tende sempre più all'astrazione, certo, quindi sull'informale. Questo è fortemente il segno delle sensazioni sociali e anche delle contraddizioni economiche di quegli anni. Poi vedo che lei mette bene in risalto il legame tra la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo economico, che sono due aspetti molto connessi tra di loro al tempo stesso. Guardi, diciamo, nella nostra esperienza è chiaro che dal punto di vista dell'analisi economica il contributo del turismo e quindi in particolare delle nostre città d'arte, del nostro patrimonio, del brand Italia al PIL del paese è fortissimo, siamo almeno al 4,5% con continua crescita, anche grazie, diciamo, alle iniziative di questi ultimi anni per valorizzare il nostro patrimonio artistico e archeologico, ma c'è di più, è la struttura proprio dell'Italia, con le sue città, con le sue 100 bellissime città, nelle quali al centro di queste città vi sono le piazze, con i palazzi, con la tradizione artistica. Pensiamo a città come Siena, o Firenze, Venezia e la stessa Roma. È chiaro che queste città hanno una vita e hanno anche una potenzialità economica e anche dal punto di vista dell'occupazione, nel momento in cui vivono di questo loro passato, ovviamente guardando al futuro. Ecco, torniamo agli anni dal dopoguerra al 1968. Lei le definisce nel catalogo che illustra la mostra i nostri happy days. Sono un passato lontano, secondo lei, oppure possiamo sperare di riviverlo? Guardi, diciamo, in realtà sono anni un po' particolari da leggere, non tanto perché non siamo abituati a trovarli sui libri di scuola, ma soprattutto perché sono anni che stanno passando da poco tempo dalla cronaca alla storia, quindi, diciamo, la lettura di quegli anni è una lettura un po' particolare. E in effetti è la vita delle nostre famiglie che in quegli anni si è andata costruendo e si è andata, diciamo, organizzando, e la casa di famiglia, la scuola fatta in situazioni particolari con i doppi e tripli turni, c'è stato il baby boom, lo sviluppo economico e quindi anche l'aumento fortissimo del tasso di alfabetizzazione. Però in realtà definirli happy day è un po' eccessivo, perché sono stati anni in cui milioni di contadini si sono trasformati in operai, certo, e in cui il tasso di invecchiamento della popolazione è aumentato, per fortuna, ma contemporaneamente è nato il problema dell'occupazione dei giovani in quegli anni e si è portato avanti. Abbiamo avuto varie scommesse nel campo della produzione industriale e della tecnologia che sono partite bene e si sono perse per la strada. Quindi il richiamo agli happy days è un richiamo per poter poi interpretare una realtà che è molto più complessa semplicemente di una stagione felice e ingenua come può essere quella appunto degli happy days. Certo, infatti anche questo è un elemento molto importante, poi ricordiamolo, sono gli anni in cui lo sviluppo è molto impetuoso ma porta con sé delle contraddizioni, ad esempio l'accentuarsi del divario tra nord e sud. Allora, di tutto questo si potrà avere conto e quindi avere anche il privilegio di vederle attraverso delle bellissime opere d'arte visitando, come dicevamo, questa interessante mostra che si chiama Altre Stanze, promossa dalla Banca d'Italia in collaborazione col Comune di Frascati. Grazie dottor Donato per essere stato con noi e averci aiutato a capirne di più di questo importante periodo della nostra storia. Buona serata. Di nuovo grazie a lei.